Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Oggi, giovedì 7 gennaio, prima puntata per questo 2021 e come sempre andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione, ovvero Retribution dei Behind Enemy Lines. Questa era la sigla d'inizio per questa puntata odierna di Zardins Magnetics che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine. Stiamo trasmettendo sui 90 MHz e adesso, prima di partire insomma, con la musica, con la presentazione di pezzi musicali e anche altri interventi, volevo ricordare i contatti per chi volesse scriverci. Allora io ve li leggo e comunque lo faremo anche alla fine della trasmissione. Allora, contatto mail, ovviamente vi do il nome della mail. Allora, libere tutti @autistici.org. Ripeto, libere tutti @autistiche.org. Poi, per chi volesse scriverci, invece, insomma, normalmente via posta normale, vi diamo anche questo contatto: Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, 39121 Trieste. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 129, poi Trieste Centro, codice di avviamento postale 39121 Trieste. Bene, andiamo ora con quello, insomma, con la presentazione di questo disco, di questa band italiana, da questo loro album uscito nel 2010. Loro sono i Bhopal e questo è il loro album Age of Darkness. e stiamo ascoltando in sottofondo i Bhopal, band italiana, album del 2010 che si chiamava Age of Darkness. Ehi, tu forestiero, siediti qui. Mi sei simpatico, ti voglio vicino. Hai visto come tratto i miei muchachos? Non ti tento a far parte della compagnia? Volete tirarvi indietro? A me la coscia! Ehi, lascia quel bambino qua! Ehi, dammi qua! Mangia, mangia e bevi, e vedrai che ti sentirai nostro fratello. I piaceri della tavola aprono la porta ai sensi. I sensi alla fratellanza, la fratellanza alle imprese virili. Direi alle imprese criminali. Tenere prigioniero un ragazzo. Ma c'è forse qualcosa di più virile del crimine? Non mi dirai che tu non l'hai mai conosciuto. Spari troppo bene con la tua pistola. Sì, ho avuto anch'io degli amici. Se con loro hai compiuto qualche delitto non del tutto stupido, forse puoi capirmi. Mangiare, bere e contemplare la propria vittima. Non c'è niente di più sensuale. Sera a tutte e tutti da parte mia. Questa sera, prima di cominciare, vogliamo ricordare che la scorsa puntata, l'ultima puntata del 2020, avevamo proposto un radiodramma realizzato dai curatori di Radio Cane, dal titolo Strani soldati senza bandiera. Era un radiodramma liberamente tratto dai racconti di Giulio Questi, nato nel 1924 e scomparso nel 2014 a 90 anni, partigiano, autore tra gli altri anche del truce film western Se sei vivo spara del 1967 con Thomas Millian. Visto che giovedì scorso l'ascolto è stato impietosamente tagliato per fare spazio al programma che segue, oggi per rimediare in qualche maniera vi proponiamo il finale, che non è andato in onda l'altra puntata, del radiodramma Strani soldati senza bandiera. Improvvisamente incontrammo pezzi di metallo e pezzi di carta. Incontrammo l'ala di un timone con insegne militari. Non potemmo più tener conto di ciò che incontravamo. Ci aggiravamo attoniti tra la vasta frantumazione, attenti a dove mettere i piedi. Raccoglievamo oggetti informi cercando di indovinarne il senso, lasciandoli subito cadere. Poi alzammo gli occhi. Lamiere, sbarre, bulloni e un sedile sventrato. Manifestini di propaganda, una ruota e oggetti sconosciuti. Lì, finito il canalone, di fronte al cielo libero e aperto, c'erano i motori e i morti. Li videro, ciascuno a modo suo, avvicinandosi o allontanandosi in fretta. Io vidi intestini sparsi per terra, già ronzanti di mosconi. Io vidi un uomo rimpicciolito, come un bagonghi da circo. Io vidi bianchi omeri spolpati uscire da un giubbetto cachi. Vidi un occhio per terra che mi guardava. Ci accontentammo di una fondina e di un paio di cinture cariche di munizioni e ce ne andammo volentieri da quel mostruoso inganno di morte e lamiera. Costeggiammo il lago d'Aviasco in tutta la sua lunghezza, raccogliendo le forze, prima di affrontare la dura salita del passo. Man mano che salivamo, potendo controllare la vasta distesa alle nostre spalle, l'ansia ci lasciava. Sembrava che il cielo rispecchiasse le nostre anime. Alzando gli occhi, vidi pallidi brandelli rosa di un tramonto invernale. Ed era ormai buio quando cominciammo a scendere verso il lago nero. Accostammo il primo ghiaccio quando uscì la luna. Tutto il lago ne fu illuminato. Alcuni erano già arrivati e le resistenze elettriche erano state accese. Si gettarono sulle ciotole abbandonate alla partenza. Gli abiti del costola non scricchiolavano più. Nel caldo della baracca il ghiaccio si era sciolto e ogni piega della stoffa si era tagliata. Le listarelle gli pendevano dalle gambe e dal dorso, tramutandoli in un giullare medievale senza campanelli. Mi spogliai nudo e, avvolto in una coperta, mi addormentai accanto ad una resistenza rovente. Non feci sogni, ma come in un sogno fui risvegliato in piena notte da un trapestio sull'impiantito di legno e da numerose voci. È arrivato il comandante M, è pallido e teso. Ha perso 3 uomini in un attacco dei neri. Il giapponese è caduto! Maledette carogne! Un attacco della controguerriglia è possibile. Bisogna lasciare le baracche con la prima luce. Sentii tutto ciò come in un sogno e mi addormentai entrando come in un altro sogno. In quest'altro, il giapponese veniva a prendersi la sua bandana. Costola, sono io. Devo andare, mi serve la bandana. Costola, sono io. Devo andare, mi serve la bandana. Ehi, Costola. Costola, sono io. Mi serve la bandana. Devo andare. Qualcuno mi svegliò all'alba e capii che il primo sogno era vero. Cercai la bandana e non la trovai. Capii che anche il secondo sogno era vero. Mi rivestii coi miei brandelli, proteggendomi con la coperta che gettai all'indietro sulla spalla, come un mantello. La luce si rinforzava quando uscimmo tutti dalle baracche per il trasferimento. Ero l'ultimo della fila. Scendevo per il sentiero sassoso che, come un serpente, a ogni curva tornava su se stesso. Tenevo la testa bassa, attento a dove mettevo i piedi. E intanto pensavo agli avvenimenti di quei giorni, dei quali, pieno di orgoglio, mi sentivo anch'io protagonista. Avevamo combattuto. La battaglia di B sarebbe entrata nei bollettini di guerra. Pensai con un brivido che quella era storia e noi ne facevamo parte. Nell'ennesima curva del sentiero alzai la testa, quasi a cercare un riscontro vitale della mia emozione. Mi trovai davanti la gigantesca parete della diga. Non potei sfuggirle. Occupava tutto il campo visivo, indifferente e grigia. L'immensa muraglia di cemento non mandava segni. Era lei stessa un segno. Sentendomi catturare dal vasto nulla della sua materia monotona, mi affrettai nella curva del sentiero e raggiunsi di corsa i miei compagni. Avete ascoltato il terzo atto di Strani soldati senza bandiera, radiodramma partigiano liberamente tratto dai racconti di Giulio Questi. Sceneggiatura a cura di Radio Cane, musiche originali realizzate dal Kalashnikov Collective. Troppo tardi, ancora presto, giusto in tempo, è il titolo dell'articolo uscito qualche settimana fa sulla rivista online Qui e Ora, di cui ci occuperemo stasera. Tra il 23 e il 24 ottobre scorso, una sommossa scuote Napoli e rapidamente i toni istituzionali in merito alle nuove misure di confinamento cambiano registro e si modulano su zone rosse e arancioni, col DPCM del 6 novembre. L'articolo è denso di concetti e di citazioni colte al limite dell'erudizione, ma prende in considerazione un aspetto o alcuni aspetti che ci sono sembrati importanti e attorno ai quali stiamo indugiando da alcune puntate di questa trasmissione. Innanzitutto, il fatto che il virus sta dettando delle condizioni di vita che sono incompatibili con le precedenti condizioni di valorizzazione. Secondo, l'irreversibilità di questa irruzione. Ulteriore serie di questioni riguarda il fatto che la risposta che si è determinata concretamente nelle proteste è incompatibile con un tentativo di razionalizzazione politica. Non solo, ogni tentativo di razionalizzazione nasconde e nega l'essenziale immediatezza di queste proteste. Dunque esse hanno necessariamente un carattere di indecifrabilità e di equivocità. Queste proteste hanno a che fare inoltre con un'altra caratteristica di cui avevamo già parlato settimane fa, e cioè la ricerca di una forma di comunicazione liberata, di una presa di parola nel dibattito pubblico da strappare allo Stato. Le ultime proteste hanno fatto vedere che la nuova forma di prossimità imposta dal virus rischia di non poter far altro che limitarsi alla difesa di fronte a un'imposizione, cioè il confinamento, vissuta come inaccettabile. Lo stesso slogan "tu ci chiudi, tu ci paghi", alla cui ripresa abbiamo personalmente assistito anche noi, trasmette una verità solo parziale: non si verrà pagati, in quanto la situazione di prossimità precedente al virus non potrà essere recuperata, ma al contempo i nuovi rapporti sociali che il virus impone verranno convertiti affinché siano preservati i rapporti di potere di prima. E questa società spettacolare che abbiamo, ma che non ci appartiene, al momento è anche l'unica, perché manca il progetto rivoluzionario. Di più, ogni orizzonte ideale è assente dalle proteste di cui si parla ed è letteralmente inconciliabile con l'istanza nostalgica che in esse percepiamo. Ora usare le carte di pagamento conviene, e tanto! Con l'extra cashback di Natale, la prima misura del piano Italia Cashless, dall'8 dicembre se fai almeno 10 pagamenti con carta ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro in un solo mese. Usala sempre nei supermercati e nei negozi, ma anche con l'idraulico, il meccanico, l'avvocato, l'architetto e gli altri artigiani e professionisti. Per partecipare, abilita le tue carte sull'app Io. In Trentino la vita è maestra. Oggi più che mai è importante credere nelle nostre radici. Per ogni raccolto bisogna avere pazienza. Torneremo ad alzare il calice e ad assaporare il gusto della parola insieme. Cavi, il futuro è nelle nostre radici. Se infine vi era un prototipo astratto dell'aspettativa redistributiva nella società mediata dai processi di mercificazione e di spettacolarizzazione, condensato nel canone della gioventù sessuata, con lo sparire delle prossimità e delle distanze condivise viene meno anche questo canone. Infatti, nelle città svuotate dal coprifuoco, non ha più alcun senso credersi pronti a fare esperienze in attesa dell'età adulta, l'età in cui ci si potrà realizzare. Eppure è anche a questo che ci si aggrappa nostalgicamente. In conclusione è intervenuto un ribaltamento per cui ciò che si contrappone al proletario è diventata la comunità focolaio possibile dalla quale è ingoiato. E qui viene citato un passo dei Grundrisse di Marx, in cui si descriveva l'effetto di straniamento nel soggetto implicato nel processo di valorizzazione della merce, per cui la realtà è per esso la vera comunità, la Gemeinwesen. Saltando la prossimità, salta anche il rapporto sociale che su di essa era fondato. sono sul tram. Io danzo il Boko Haram, io danzo il Boko Haram. Se tra le vie del centro sfilerà la Wehrmacht, io danzo il Boko Haram, io danzo il Boko Haram. Destinali. Territori occupati della Palestina. Campo profughi di Balata, nei pressi di Nablus. 30.000 abitanti. Le case si sviluppano in altezza, come alberi in cerca di luce. Boschi di cemento tra colline seccate dal sole. Le strade, più che passare tra i palazzi, passano per le finestre, che si affacciano l'una sull'altra, dentro l'altra. Una vita dentro l'altra. I fellah hanno la terra e resistono su questa, gli abitanti nel campo no. Tutti sospettano di loro. Sono infidi, dicono. Pretendono di aver diritto a tutto, non avendo niente. Ne approfittano, prendono, rubano. La ragionevole autorità della ANP non arriva dentro al campo. Le organizzazioni della resistenza sono un ricordo di chi, armi in mano, continua a cingersi il capo con la fascia gialla di Fatah. A controllare il campo sono le bande di giovani reduci dell'ultima intifada. Gli israeliani non entrano a Balata e i poliziotti della ANP sono cacciati a colpi di proiettile. Si sono procurati le armi per amministrare il misto opaco di violenza innominabile della vita civile del campo, o almeno quella che gli amministratori della società civile chiamerebbero vita civile. Non c'è aspettativa nella permanenza transitoria del campo e i suoi leader. Sono chiamati in auto-tune a ballare dai migliori DJ dei territori che mandano una daya in versione neomelodica. Calzano le sneakers migliori del campo e sulle felpe hanno scritto sopra Brooklyn o California. I video delle feste contano milioni di visualizzazioni. Criminali, estorsori, spacciatori. Chi fa la politica, quella dei negoziati di Oslo, li considera a questa maniera. Non hanno parole, vengono solo chiamati a ballare con un M16 in spalla prima di rientrare da una finestra della vita di qualcun altro, scrutarla nella sua intimità, assente. Non ci sono strade che portano fuori da Balata, solo altre finestre che si guardano. Nessuno se ne andrà mai da Balata, tutti si posseggono. La politica non tornerà qui? Quello che sembra rimanere da questo rapido giro di proteste a Napoli, Firenze e Torino alla fine di ottobre, di fronte al comprimersi della possibilità di incontrarsi a causa del quadro emergenziale, è la possibilità di lottare per l'esperienza del conoscersi, lottare per lasciare spazio all'incontro con l'imprevedibile rischio. A proposito della richiesta di riaprire palestre e attività sportive, gli autori di questo articolo sottolineano come il virus colpisce e minaccia, esattamente come il processo di separazione della comunità del capitale, le condizioni organiche naturali, ma questa volta il virus colpisce ancora più specificamente, nel senso che in precedenza la separazione permetteva un residuo nella forma del tempo libero lavorizzato, ovvero tempo libero, cosiddetto appunto tempo libero. Ora questo residuo è cancellato ed è perciò proprio da qui che è partita la protesta e che secondo gli autori di queste 11 pagine dense di citazioni, forse anche esageratamente, si ritornerà ai bivi primordiali, i bivi espressi con un espediente grafico, aperte virgolette, spazio vuoto o barbarie, cioè socialismo barbarie, ma il socialismo non c'è più e quindi rimane uno spazio vuoto. Perché nelle proteste in strada, così come nelle battiture dentro le carceri, abbiamo una finestra su mondi che non conosciamo e che in qualche maniera ancora incomprensibile ci assomiglia o finirà per assomigliare alla nostra classe. Nel brano che abbiamo ascoltato ora erano i trentini Lud col brano A colpi di mazza, mentre prima, a parte così non sappiamo da dove è sbucato un intervento pubblicitario, fa niente. Comunque, quello che volevo dire è che prima c'è stato un altro brano tra l'intervento e la band erano i Brigade Bardot e il brano era Boko Haram. E ora invece andiamo con l'ascolto di questa band inglese, le band dell'area di Londra, band storica, loro erano i Rubella Ballet e ci ascoltiamo dei brani anche durante il prossimo intervento, tutti estrapolati dal loro album datato 1985 che si chiamava At Last It's Playtime. Loro sono i Rubella Ballet. Ascoltatrici e gli ascoltatori di The Ring Magnetics in onda su Onde Curlane. Oggi siamo giovedì 7 gennaio 2021 e allora abbiamo finito una delle ultime trasmissioni del 2020 dandovi notizia dell'esposto che cinque coraggiosi prigionieri che erano stati partecipi della rivolta carceraria di Modena dell'8 marzo dello scorso anno hanno fatto per denunciare appunto la mattanza che è seguita a questa rivolta, mattanza eseguita dalla polizia penitenziaria. E iniziamo l'anno con questo ulteriore contributo sulla rivolta al carcere di Modena e però non solo su quello. Un messaggio non recepito. È questa la percezione che abbiamo riguardo a quello che successe neanche un anno fa nelle carceri italiane. La percezione che, da un lato, in tanti non abbiano compreso il significato di quei giorni. Delle urla sprigionate dai petti delle persone recluse, del piombo sparato a Modena contro i detenuti in rivolta. Dall'altro, che non sia stato compreso il significato del successivo coro dei media, secondo il quale i voltosi sarebbero stati pilotati da una regia esterna, anarchici o mafiosi, e le morti sarebbero avvenute per overdose dopo l'assalto alle infermerie delle carceri. A nostro parere è importante mettere a fuoco alcuni aspetti, per lo più taciuti o messi in secondo piano a livello mediatico. Per esempio, considerare in quante carceri, non solo in Italia ma in tutto il mondo, si siano estese proteste e rivolte in corrispondenza dell'avvento della pandemia Covid-19 e quali decisioni siano state prese dalle autorità. Qui, a differenza che in altri luoghi del pianeta, in cui sono stati rilasciati migliaia di detenuti, non c'è stata esitazione nell'uso del pugno duro, nella rappresaglia per le proteste, nell'incutere intenzionalmente terrore nelle persone recluse in modo trasversale. Decisioni prese dall'alto che hanno provocato una ferita che si farà sentire sulla pelle delle presenti e future persone incarcerate. Altro fattore importante è considerare come il DAP, i dirigenti sanitari, i direttori e le varie figure interne al sistema penitenziario stiano palesando le stesse negligenze di tutti i burocrati di Stato che decidono sulle vite degli altri, dentro e fuori le galere. Dopo le rivolte di marzo, alcuni giornalisti hanno interpellato i dirigenti sanitari del carcere di Modena, chiedendo loro come venissero gestiti il metadone e altri farmaci dentro il carcere. La risposta è stata: non lo so. Alle richieste di chiarimenti su cosa avessero fatto le varie autorità è seguito il classico rimbalzo di uffici: silenti, no comment. Si potrebbero anche sciorinare le affermazioni dei vari rappresentanti delle forze di polizia penitenziaria sul fatto che nessun atto di tortura o violenza sia stato perpetrato sui reclusi, se non nei momenti utili a riportare l'ordine nelle carceri. Frasi che risuonano stonate. Tutti sanno che dietro a certe parole c'è una violenza organizzata da parte delle forze dell'ordine, il benestare di chi li comanda e la copertura di chi fa finta di non vedere. Così reagisce l'autorità. L'autorità è il ministro di giustizia, è il capo del DAP, è il direttore del carcere, è l'agente violento, è il medico connivente, è il garante per i diritti dei detenuti che si gira dall'altra parte. L'autorità è chi ha il potere di negare di avere una responsabilità, o meglio, la responsabilità del massacro avvenuto nelle carceri. Così è andata e sta andando la gestione da parte dello Stato delle morti avvenute in carcere nei mesi di marzo e aprile. Il carcere rispecchia la società che lo circonda, concetto sempre più vero. La corrispondenza tra dentro e fuori le mura delle carceri, tra il modo in cui vengono gestite le emergenze e quindi le persone, è sempre più tangibile. Forse è sempre stato così, ma ancora, troppo spesso, non ci si accorge di questo. We'll be right back. la voce di chi vorrebbero mettere a tacere. Lo scorso 20 novembre, 5 uomini coraggiosi, 5 detenuti, hanno restituito, con un esposto alla procura di Ancona, un'altra realtà dei fatti. Le storie che fino a quel giorno erano state raccontate anonimamente sono state messe nero su bianco da 5 persone che a Modena durante la rivolta c'erano. Poco importante se in modo attivo o passivo. Quello che importa è che quanto da loro raccontato si scontra con le ripetute falsità dell'autorità, contro i suoi silenzi assordanti e le menzogne raccontate in difesa dei suoi uomini e donne in divisa, contro un massacro mascherato da suicidio di massa per overdose, silenzi e travisamenti voluti dalle autorità per non permettere che verità sia fatta. Lo Stato è efficiente quando vuole esserlo. All'inizio di marzo il DAP dava ordini alle guardie di sminuire il problema sanitario legato al virus, invitava a non mettersi le mascherine per non allarmare i detenuti, che, come abbiamo visto, sono giustamente suscettibili quando si sentono in trappola di fronte alla possibile morte. Mentre i mezzi stampa intimavano di restare a casa, i detenuti hanno ben capito che solo uscendo dal carcere avrebbero potuto preservare la propria salute. Alcuni, nel trambusto delle rivolte di marzo, lo hanno addirittura fatto senza chiedere il permesso a nessuno, tentando, in alcuni casi riuscendovi, di evadere materialmente di prigione, anche in massa. Uscire dal carcere senza le chiavi è ai nostri giorni qualcosa di molto raro, che ha rappresentato un'ulteriore messa in discussione della cristallizzazione su ciò che è possibile o giusto fare quando ci si sente alle strette. La paura inculcata a tutti in tempo di pandemia nelle carceri, dove appunto era palese il maldestro tentativo di sminuirne la pericolosità, ha provocato delle rotture anziché un addomesticamento. Rotture che hanno acceso i riflettori, riportandole al centro del dibattito su alcune questioni di sempre. Ma perché così tanto timore? Forse perché la sanità in carcere è generalmente lenta, negligente o addirittura assente? E questo è un problema reale radicato, non è un vezzo polemico di alcune, di qualche detenuto schizzinoso. È la realtà, la sanità in carcere è assente o malfunzionante, lo sa chiunque in carcere ci sia stato, o chi abbia familiari o amici all'interno. Ma allora, se il problema c'era già prima di marzo, già prima delle rivolte, perché quando i detenuti l'hanno sollevato tramite la distruzione di intere carceri o sezioni, unico modo per dare voce alla richiesta di sanità, il DAP e il Ministero della Giustizia hanno voluto spostare l'attenzione su altro? Perché hanno volutamente sollevato tutto quel cancan mediatico rispetto ad un possibile svuota carceri che avrebbe fatto uscire non si sa quanti cosiddetti mafiosi? Perché coscientemente hanno scelto di parlare in quel modo, di passare un messaggio distorto e manipolato? Forse perché quelle rivolte sono un segnale verso tutti gli sfruttati e sfruttate di questo paese? Forse perché il carcere è più vicino di quanto si creda a tutte le persone nel momento in cui i bisogni primari non riescono ad essere più soddisfatti? Forse perché legalità ed illegalità non sono come ci vengono raccontate, visto che le leggi sono fatte da uomini e donne potenti, ricche, senza scrupoli e trasversalmente reazionarie? Del piombo e della noncuranza. Quel piombo sparato a Modena dagli agenti sui detenuti ha un significato ben preciso. Non solo lo Stato, personificato da agenti in divisa, ha sparato su degli uomini che vengono considerati dei più solo monnezza, tossici, buoni a nulla, eccetera, ma ha sparato in realtà su tutti e tutte. Il significato che noi diamo a quel piombo è questo. Lo Stato ci sta dicendo, ci ha detto, che oggi, nel 2021, in una Repubblica parlamentare europea, esso si sente libero di sparare e non è detto che in futuro non sia disponibile a farlo nelle piazze, durante le lotte sul posto di lavoro, nei campi, nei quartieri o dovunque qualcuno decida di riprendersi il mal tolto. Infatti Mattarella ha ripetuto questo messaggio in altra occasione e in modo più velato, cioè dopo gli scontri di fine ottobre 2020 nelle piazze di varie città. «Manderemo l'esercito», disse, «e tutti sappiamo che i militari non usano i manganelli. Non sono addestrati per questo. L'intensità della violenza di chi sta al potere sta aumentando. In parte ce lo stanno promettendo, in parte è un crescendo già in atto. Non è necessario andare lontano per averne prova ed essere certi che le autorità, di dittature o democrazie indifferentemente, facciano un uso sistematico della violenza in difesa dei loro interessi e della loro tutela». Mentre i media di una democratica Italia dipingono con toni di condanna omicidi e incarcerazioni d'oltremare, provando a spostare lontano lo sguardo dell'opinione pubblica, noi qui ascoltiamo la voce di chi sta in carcere, le urla di chi viene ammazzato di botte nelle caserme o nelle questure, e sappiamo che non siamo poi così tanto al sicuro. Non è una lettura di parte questa, è una lettura che non ha paura di guardare la realtà in faccia, nonostante la sua brutalità. Per restare in Italia, il 7 aprile 2020, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, oltre 300 agenti speciali entravano a freddo nelle celle, manganellando a sangue. È stato forse un errore? È scappata la mano? I 300 agenti della penitenziaria a volto coperto si trovavano lì per caso? Il 9 marzo 2020, ad Ascoli Piceno, moriva, uno tra 14 morti, Salvatore Piscitelli. È stato ufficialmente dichiarato che sia morto in ospedale, in seguito al trasferimento dal carcere di Modena, dove si sarebbe imbottito di metadone. Ma la verità è che in ospedale Salvatore non è mai stato portato, le guardie non l'hanno soccorso e hanno urlato «fatelo morire» a chi chiamava aiuto. Le 14 morti avvenute nelle carceri o durante i trasferimenti dopo la rivolta dell'8 marzo sono avvenute per mano delle autorità e per loro noncuranza. E siamo ancora su Jardins Magnetics, Radio De Furlane, e ancora parliamo di ciò che è successo a Modena e in altre carceri italiane nel marzo del 2020, leggendo questo importante documento. Dire la verità, nient'altro che la verità. Oggi che 5 detenuti hanno messo la faccia raccontando la verità e il loro vissuto su quello che è successo nelle carceri di Modena ed Ascoli, come ha risposto lo Stato? Li ha sottoposti ad una fortissima pressione psicologica, riportandoli nel carcere di Modena, dove erano state perpetrate gran parte delle violenze e gli assassini di 9 persone. Li ha chiusi in celle con i vetri delle finestre rotti, isolandoli, dando loro acqua sporca da bere, consegnando coperte bagnate all'occorrenza, cercando di limitare il più possibile i contatti con i loro cari. Dopo gli interrogatori, queste 5 persone sono state nuovamente trasferite verso 5 differenti destinazioni. Divide e Timpera. E poi, come mai questo no comment rispetto all'esposto da parte dell'autorità del carcere? Di solito aprono il megafono dei giornali per piangere ogni cosa che non va ed ora invece stanno zitti. Perché? Sappiamo che quando le autorità tacciono spesso non è sintomo di cose belle, in un modo o nell'altro in questo paese, ma in realtà ovunque ci sia potere, tutti sappiamo, in modo più o meno consapevole, che chi si espone raccontando la verità rischia la propria vita. Potremmo raccontare storie come quella di Ilaria Alpi e Miriam Rovatin, i quali si permisero di indagare sul traffico di rifiuti tossici tra Italia e Somalia, o dei cinque anarchici che nel 70, mentre portavano una controinchiesta a Roma sulla strage del treno di Gioia Tauro del 70 e su Piazza Fontana del 69, morirono in un incidente vicino a Roma. Stavano portando i documenti ai loro compagni e all'avvocato Edoardo Di Giovanni. Tutti sappiamo tramite la letteratura, la cinematografia, la storia, che quando c'è qualcosa di losco e si cerca di riportare alla luce i fatti per come sono andati, la macchina statale, la mano pesante della burocrazia, della salvaguardia delle poltrone, dell'aguzzino che si muove nell'ombra sicuro della propria incolumità, si attiva e come. Allora i corpi vengono cremati, come è successo per alcuni detenuti deceduti a marzo. Il tempo fatto passare, le carte fatte sparire. I silenzi si sovrappongono e i medi parlano d'altro, spostando l'attenzione lontano. Il tono, oltremodo prudente dei giornalisti, anche di quelli in buona fede, usato nel raccontare i fatti di marzo, non aiuta a comprendere la profondità della vicenda. Che significato hanno le umiliazioni inferte volutamente ai detenuti in seguito alle rivolte? Che significato hanno avuto gli spari, le manganellate, le botte, la privazione degli indumenti, la decisione di rasare in massa i prigionieri, come è accaduto a Santa Maria Capua Vetere i primi di aprile? Dobbiamo per forza pensare che la mano pesante dello Stato si abbatta solo lontano da noi, in Egitto oppure in Cile con lo stupro di massa di centinaia di donne durante le rivolte del 2019, o nelle Filippine dove la polizia spara apertamente per strada alla gente in questi mesi? Loro la chiamano istigazione, noi solidarietà. Una riflessione che vogliamo condividere, un posizionamento, in quanto anarchiche e anarchici, parteggiamo per chi è messo alle strette e si ribella, per chi subisce le angherie di chi detiene il potere, per chi soffre. Questo prendere parte ci porta spesso a pagare con la nostra libertà, ma è una scelta che rivendichiamo e rilanciamo con cognizione di causa. Quando portiamo solidarietà ai nostri compagni e alle nostre compagne in carcere o a chi si ribella contro le ingiustizie, lo Stato prova ad accusarci di istigazione a delinquere. E lo fa con crescente facilità, anche se questa accusa da sempre rientra nelle armi d'attacco usate dall'autorità contro chi ad essa si ribella. Nel periodo del lockdown, nel maggio 2020, siamo arrivati al paradosso dell'arresto di un pugno di anarchici, con pubbliche dichiarazioni della procura che difendeva il valore preventivo di quegli arresti, fatti per scongiurare il pericolo dell'istigazione in un momento così delicato. Lo Stato sa di avere buone ragioni per temere che il malcontento esploda. Lo sa e ne ha paura. Per questo attacca, cerca di spezzare la solidarietà, camuffandola giuridicamente con la definizione di istigazione. Mai ci sono stati due concetti più distanti tra loro. L'istigazione non la facciamo noi. I detenuti, che nelle galere hanno detto basta, non avevano bisogno dei nostri cori sotto le carceri per farlo. Erano le condizioni disumane e vessatorie in cui li tenevano e li tengono ad averli istigati alla rivolta e alla fuga. Sono state le misure messe in atto dallo Stato nel momento della pandemia nei confronti dei carcerati ad averli istigati, perché lo Stato ha detto chiaramente la vostra vita vale meno della nostra. La solidarietà è non aver paura di sostenere tutto questo, di dare voce e corpo con quanta più forza possibile a chi è dietro le sbarre. Solidarietà non sarà mai dire a qualcuno ciò che deve fare, ma parlare con persone pensanti che vedono e vivono la stessa realtà che viviamo noi. E che ad essa possono scegliere di reagire. Non vogliamo attribuire significati impropri al coraggio di chi si è ribellato, di chi si è rivoltato o di chi ora lotta per la verità, ma non possiamo non leggere i loro atti come l'umana reazione alle più profonde ingiustizie. Così come non possiamo non leggere nella battaglia di questi cinque prigionieri un coraggio che si carica delle sofferenze di tanti, troppi detenuti vessati, torturati, ricattati, annichiliti da un sistema penitenziario che strutturalmente è violento. Non possiamo non rintracciare nella violenza, attuata su quelle persone imprigionate, dei segnali chiari a tutte e tutti. Siamo contro le ingiustizie, ma siamo anche contro lo Stato, prima e dopo i fatti di Modena. Anzi, quei fatti rafforzano le nostre idee riguardo a quello che pensiamo, riguardo alla convinzione che racchiudono l'essenza dello Stato e di come il carcere sia propedeutico al benessere di chi ci sfrutta. Il carcere è un monito per tutti e tutte. È sempre lì la struttura della repressione e sono sempre attorno a noi coloro che traggono il profitto e potere da quel luogo. I responsabili di quegli assassini si nascondono, chi li protegge è coperto dal mantello dello Stato. Ma questo poco importa. Chi cerca verità la troverà. Anche noi abbiamo un segnale da mandare. Gennaio 2021, mani, menti, cuori, da differenti latitudini. Ciao a tutti e a tutte, e oggi volevo parlarvi di una vicenda particolare oltre che grave, insomma. La gravità sicuramente prevale sulla particolarità, perché a Milano, al Tribunale di Milano, si stanno processando, o almeno l'11 gennaio prossimo, 21, si aprirà il processo a carico di quattro compagni. Questi quattro compagni sono inviati a giudizio per la contestazione alla presenza delle bandiere dello Stato di Israele alla manifestazione del 25 aprile 2018 a Milano. E le accuse sono varie: minacce, resistenza pubblico ufficiale, lancio di oggetti, se non sbaglio. Ma la cosa grave e particolare è l'aggravante che viene contestata a questi compagni, cioè quella dell'incitamento all'odio razziale. Cioè, in sostanza, si arriva a strutturare un processo e un'accusa su quello che è il teorema ideologico preferito dai sionisti nella difesa e nella propaganda pro-israeliana, cioè il fatto che in questo caso le contestazioni, ma anche la semplice critica a Israele, sia manifestazione di antisemitismo e quindi di razzismo. La storia di questi compagni, la loro militanza attuale, invece va in senso opposto. Questi compagni manifestavano da antifascisti, dunque anche da antirazzisti, quel giorno, per contrastare la presenza di uno Stato che possiamo sicuramente definire razzista e probabilmente anche fascista, come lo Stato di Israele. È annunciata una presenza solidale al Tribunale di Milano l'11 gennaio. E alle ore 9, proprio in concomitanza con l'udienza. Adesso vi leggerò il testo che questi compagni hanno scritto proprio in relazione a questa mobilitazione per la loro difesa politica, se ce ne fosse di bisogno, ma soprattutto per per ribaltare le accuse che vengono rivolte a loro, cioè ribaltare l'accusa di razzismo al sionismo, mostrandone la vera natura e la realtà delle pratiche che porta avanti in Palestina. Allora do lettura. L'antisionismo non è antisemitismo. L'11 gennaio 2021 inizierà presso il Tribunale di Milano il processo contro quattro compagni rinviati a giudizio per la contestazione della presenza delle bandiere dello Stato di Israele alla manifestazione del 25 aprile 2018 a Milano, con accuse che vanno dalle minacce alla resistenza pubblico ufficiale, aggravate dall'incitamento all'odio razziale. Si tratta a tutti gli effetti di un processo politico che ha l'obiettivo preciso di criminalizzare la solidarietà alla resistenza del popolo palestinese contro l'occupazione sionista della propria terra e le vessazioni e persecuzioni razziste che subiscono da quasi un secolo, con stragi, omicidi mirati, deportazioni, apartheid, torture e anni di galera, al di fuori di qualsiasi stato di diritto. Il fatto che oggi la giustizia del nostro Stato decida di incriminare dei compagni accusandoli di incitamento all'odio razziale per aver contestato la presenza delle bandiere di un regime costituzionalmente e visceralmente razzista, più che un dato paradossale, è la dimostrazione concreta dell'ipocrisia di una giustizia al servizio degli interessi dominanti, che per la loro proiezione imperialista vedono in Israele uno dei complici più affidabili, come mostra la fitta rete di scambi che è al centro del commercio di sistemi di armamento. Da parte nostra abbiamo l'intenzione di trasformare il processo nei nostri confronti in un processo contro il sionismo, in quanto concezione politica razzista e colonialista, e contro l'azione dello Stato di Israele, che ne incarna il progetto di occupazione della Palestina e di annientamento delle sacrosante ragioni del popolo palestinese. Consideriamo inoltre odiosa e respingiamo risolutamente l'accusa di incitamento all'odio razziale. La nostra vita politica, sociale e culturale è sempre stata improntata a combattere il razzismo in qualsiasi forma esso si presenti e consideriamo una vera e propria provocazione essere processati con questa accusa. Denunciamo anche il fatto che il nostro non è un caso isolato, ma fa parte di una campagna orchestrata a livello internazionale che vede il sionismo all'offensiva nel tentativo di contrastare la solidarietà alla causa palestinese, come mostrano gli esempi di processi analoghi al nostro o le leggi di equiparazione dell'antisionismo all'antisemitismo in Francia, Gran Bretagna e Germania. Mobilitiamoci perché questo processo non costituisca un precedente che possa discriminare la solidarietà al popolo palestinese, ma diventi invece occasione di rilancio. Quindi, lunedì 11 gennaio ore 9, presidio davanti al Tribunale di Milano. Testo firmato da tutti gli imputati. La necessità di fronte a un'accusa come questa è proprio quella di ribadire il fatto che Israele e i sionisti italiani, e in questo caso la procura e la procura di Milano, sono invece loro i veri razzisti. come dicevano i compagni, come si dice in questo appello, in questo testo, tra razzisti, tra imperialisti e guerrafondai ci si aiuta e si collabora. Quindi gli interessi che stanno dietro a questo processo, sono gli interessi di una difesa, a livello anche giudiziario, quindi di persecuzione giudiziaria e poliziesca, la difesa di interessi ben concreti, che riguardano, come si diceva, l'affarismo bellico e in generale tutti i rapporti intercapitalistici e interimperialisti che ci sono tra Stato italiano e Stato sionista che occupa la Palestina. Ricordiamoci che ogni governo che passa stringe sempre di più i rapporti con Israele a livello militare, a livello di ricerca scientifica e anche a livello economico in generale. Ricordiamoci che inoltre Israele è un modello sì, politico, come più di qualche esponente della politica italiana l'ha definito, da ultimo Salvini, prima anche Renzi, è un modello politico in termini di sicurezza, così è stato detto, di antiterrorismo, un modello in termini di ricerca scientifica, è una sorta di archetipo sì, di ideale cui tendere. Sembra assurdo definire questo perché si tratta di un paese che è sempre in guerra, ma vista la fase che viviamo, una fase di sviluppo della guerra imperialista, Israele effettivamente è in un certo senso l'avamposto e l'avanguardia anche ideologica. Tutta la coscienza nazionale israeliana è costruita sul mito della necessità della guerra contro l'altro, in questo caso i palestinesi, e se pensiamo bene, con la proclamazione della guerra al terrorismo, di cui al cosiddetto terrorismo, alla guerra lanciata nel 2001 dagli Stati Uniti, a cui l'Italia partecipa con truppe dislocate in varie parti del mondo, è il paese che è presente su più fronti di guerra a livello mondiale, l'Italia, e questa narrazione tipica del sionismo è diventata una narrazione globale. Quindi quello che sta dietro a questo processo sono interessi concreti e un'egemonia politico-culturale ben precisa che ruota attorno al sionismo e che è funzionale alla guerra imperialista. Quindi io non posso che rilanciare la solidarietà a questi compagni. Ricordo l'appuntamento di lunedì 11 gennaio alle 9 presidio davanti al Tribunale e in generale la lotta al sionismo in solidarietà al popolo palestinese, ma la lotta anche contro lo Stato italiano che è pienamente complice di Israele dei massacri in Palestina e che è parte di quel macello globale che va dall'Africa subsahariana all'Afghanistan con truppe di occupazione, sistemi di controllo. Droni, bombardamenti, embarghi, eccetera, eccetera. pezzo di vita a chiunque ne voglia pagare, niente è uguale. Ecco, vedi la calla un po' di verità. Ecco un gesto che ha senso spuntare tra la falsità. E sulle note di questo brano del Congegno, band trentina, unico album che hanno composto, ci salutiamo. Siamo giunti al termine di questa trasmissione Cazzardini Magnetici in diretta radiofonica dal studio Radio Onde Furlane, come tutti i giovedì alle ore 20:10 circa alle 21:30. Chiedo scusa se prima ho sfumato brutalmente tutti i brani dei Rubella Ballet che stavamo ascoltando. Band inglese degli anni 80, dal loro album del 1985 che abbiamo trasmesso, ma per questioni di orario, di tempo, abbiamo insomma dovuto così accorciare un po' tutto, ovviamente lasciando lo spazio per intero agli interventi. Quindi l'appuntamento è per il prossimo giovedì e vi ripeto i nostri contatti per scriverci via mail. Il nome della nostra mail è liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org. Inoltre vi do anche un contatto per poterci scrivere. Il contatto è Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centrale 34 121 Trieste. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, codice di avviamento postale 34 121 Trieste. Bene, l'appuntamento quindi, come già detto, per il prossimo giovedì, sempre dalle ore 20:15 circa, in diretta radiofonica dal studio di Radio Onde Furlane. Ciao a tutti e vi lascio con questo brano del Congegno. Ciao a tutti. Yeah.